di migranti. Ognuno di loro porta competenze specifiche in diversi settori, però ognuno di loro lavora insieme a tutti gli altri e questo per noi è anche un valore. Grazie a Marzia Sica, lo ricordo, della Compagnia di San Paolo, impegnata da anni sui progetti di cooperazione e sviluppo in Africa occidentale, in Senegal in particolare. Bene, con questo abbiamo concluso l'appuntamento, come di consueto, con 30 minuti in cronaca, anche in questa veste estiva, per il prossimo sabato a partire dalle 19:30. Buon fine settimana a tutti voi.